was just sentite, d'ora in avanti niente più Guns N' Roses e Soup Dragons, capito? Vi voglio a dieta stretta di Soul. James Brown a colazione, Otis Redding a pranzo, Smokey Robinson a cena e Aretha per gli spuntini fuori pasto. Il Soul ha il ritmo del sesso e anche il ritmo della fabbrica, ha il ritmo dell'operaio, del sesso e della fabbrica. Il soul è musica che il popolo capisce. Certo, è musica semplice, ma ha qualcos'altro, qualcosa di speciale. È onesta, ecco, è sincera. Non è musica stronza. Ha il coraggio di dire che viene tutto dal cuore. Certo, c'è un sacco di musica che dà piacere, ma il soul dà più di questo. Il soul ti porta lontano, ti afferra per le palle e ti tira fuori dalla merda. Ciao a tutti e a tutte, bentrovati e bentrovate a questa nuova puntata di Soul Time, per l'esattezza la 19ª puntata di Soul Time. Siamo qui sulle frequenze di Radio Wombat. Vi ricordo che potete ascoltare Radio Wombat sulla frequenza AM o in onde medie sulla frequenza 1359, oppure direttamente dal nostro sito radiowombat.noblogs.org. Ci potete ascoltare in streaming o potete ascoltare tutte le varie trasmissioni in podcast, potete ascoltare tutte le registrazioni sempre sul medesimo sito. Inizia questa nuova puntata di Soul Time nel segno di Arthur Conley. Nato Arthur Lee Conley nel gennaio del 46, è scomparso nel 2003, grandissimo cantante soul americano, meglio conosciuto per il successo del 1967 intitolato Sweet Soul Music. Arthur Conley è nato in Georgia, negli Stati Uniti, ma è cresciuto ad Atlanta. Ha inciso per la prima volta nel 1959 come cantante principale del gruppo Arthur and the Corvettes. Con questo gruppo ha pubblicato tre singoli nel 1963 e nel 64, singoli come Poor Girl, I Believe e Flossie May, per l'etichetta discografica di Atlanta, la National Recording Company. Poi nel 64 si trasferì presso una nuova etichetta, la Rue Jack Records di Baltimora, dove pubblicò il singolo I Am Lonely Stranger. E proprio dopo aver pubblicato questo singolo, Otis Redding lo ascoltò e chiese proprio a Conley di collaborare e insieme incisero. Grazie alla produzione di Otis Redding, diversi brani, tra cui proprio la hit assoluta di Arthur Conley, Sweet Soul Music. Questo album venne inciso nel 1967 sotto l'etichetta Atlantic, Otis Redding si occupò proprio di produrre questo bellissimo album. Piccolo aneddoto, anche oltre alla produzione di Otis Redding, anche le note di copertina furono curate proprio da Otis. Quindi io ve lo vado a proporre, ci ascoltiamo la bellissima Sweet Soul Music, lui è Arthur Conley. Conley con Sweet Soul Music, brano del 1967. Il prossimo pezzo è di Bobby Moore, Robert Bobby Moore, un sassofonista e per tanti anni anche leader della band Bobby Moore and the Rhythm Aces, gruppo soul americano di Montgomery, nello stato dell'Alabama. Bobby Moore in realtà era nato a New Orleans in Louisiana, si arruolò fin dall'adolescenza nell'esercito degli Stati Uniti. Poi, mentre si trovava a Fort Benning in Georgia nel 1952, formò proprio la prima formazione dei Rhythm Aces, con membri della banda musicale proprio di Fort Benning, girando tutto il sud dello stato americano, suonando in eventi e club militari per diversi anni. Poi la carriera di Bobby Moore dopo questi inizi proseguì e proseguì molto molto bene, arrivando anche a fare concerti come band di supporto di grandi artisti nazionali come Sam Cooke e Ray Charles. Poi iniziarono a incidere diversi brani nel corso degli anni 60, raggiungendo grandissimi risultati, ottimi risultati, arrivando anche nei primi 20 posti delle classifiche nazionali. Io per questo pomeriggio qui su Soul Time vi propongo questo brano su etichetta Shaker, brano del 1965 di proprio Bobby Moore and the Rhythm Aces, che si intitola Hey Mr. DJ. Ce lo andiamo subito ad ascoltare. One, two, four. Ok, e torniamo in studio dopo questa bellissima strumentale di Bobby Moore intitolata Hey Mr. DJ. Passiamo con il prossimo brano a una figura, a un artista che abbiamo già ascoltato tante altre volte qui a Soul Time, è uno dei più grandi cantanti soul sicuramente di tutti i tempi. Lui è Edwin Starr. Nato a Nashville nel 1942 e scomparso nel 2003, noto per le tantissime hit incise nel corso della sua carriera. Come vi dicevo, Edwin Starrs è nato nel 1942 a Nashville, ma si trasferì prestissimo a Cleveland, nell'Ohio, dove crebbe insieme ai cugini Roger e Willie Hatcher, anche loro dei grandi cantanti soul. Nel 1957 formò un primo gruppo doo-wop denominato The Future Tones e cominciò la sua carriera di cantante. Negli anni 60 visse a Detroit, incidendo inizialmente per una piccola casa discografica, la Rick Tick, successivamente poi passò alla più famosa Motown, quando nel 1968 proprio la Motown assorbì questa piccola casa discografica. Il suo primo successo risale al 1965. Con il brano intitolato Agent Double All Soul, sicuramente ispirato ai film di James Bond in voga in quel periodo. Mentre del 1968 il suo primo successo di rilevanza internazionale, 25 Miles, 25 miglia, ancora, che viene ancora spesso suonato sia sui dance floor di tutto il mondo e anche molto spesso dalle radio che si occupano di musica anni 60. Ovviamente non posso esimermi a questo punto da farvi ascoltare questo brano 25 miglia, 25 miles su etichetta Gordy, brano del 1969 su questo LP. Del 69 ci andiamo a ascoltare 25 Miles con Edwin Starr. Home girl. Questo era Edwin Starr con 25 Miles. Il prossimo brano già pronto è quello di Jackie Wilson, nome d'arte di Jack Leroy Wilson Jr., nato a Detroit nel 1934 ed è stato un cantante e ballerino statunitense. Considerato uno dei più grandi performer di ogni tempo, sono tantissimi gli artisti che si sono ispirati a lui, primo tra tutti Michael Jackson. Venne soprannominato anche Black Elvis e Mr. Excitement. Wilson svolse un ruolo fondamentale per l'evoluzione dell'R&B. Nei primi anni di attività fu membro del gruppo vocale The Dominos, avviando una fortunata carriera da solista a partire dal 1957. Registrò oltre 50 singoli di successo, nei quali si cimentò in numerosi generi, tra cui l'R&B, il pop, il soul e il doo-wop. Poi, durante un concerto di beneficenza nel 1975, si sentì male sul palco a causa di un attacco di cuore mentre cantava Lonely Teardrops, entrando subito in coma, rimanendovi in questo stato per quasi 9 anni fino alla sua scomparsa nel 1984, scusate, 1984. Quindi direi proprio di andarci ad ascoltare Lonely Teardrops, l'ultima canzone cantata dal vivo dal grande Jackie Wilson su questo LP del 1959 su etichetta Brunswick, intitolato proprio Lonely Teardrops, con la canzone che dà il titolo all'intero brano. Quindi ci andiamo ad ascoltare la voce di Jackie Wilson. My heart is crying, crying. Lonely teardrops. My pillow never dried. Lonely teardrops. Come home, come home. Say you will, say you will, say you will, say you will, say you will. My heart is crying, crying, lonely teardrops. My pillow never dried, lonely teardrops. Come home. Jackie Wilson con Lonely Teardrops. La prossima figura che andiamo ad affrontare e di cui ci ascolteremo un suo grande brano è una figura molto molto importante per tutta la storia della musica americana e non solo, è quella di Billy Eckstine, nato a Pittsburgh nel luglio del 1914. Divenuto ben presto cantante e leader di una grande orchestra attorno alla metà degli anni 40, il periodo preciso tra il 1944 e il 1947. Eckstine è stato un grandissimo cantante statunitense di musica jazz. Iniziò a suonare appunto molto molto giovane ed ebbe anche una grandissima influenza sulla musica jazz moderna, in particolare sul bebop, assumendo nelle sue orchestre molti dei più importanti esponenti di questa corrente musicale, che in quegli anni si andava esprimendo soltanto in alcuni piccoli localini newyorkesi, e che tra l'altro avrebbe rischiato di spegnersi già sul nascere, ma grazie alla figura proprio di Billy Eckstine questo genere si impose in tutto il mondo. Per quanto riguarda il suo modo di cantare, il suo canto jazz, non c'è cantante al mondo che non abbia ammesso negli anni di avere avuto proprio Eckstine come una sorta di faro, a partire dal grandissimo Nat King Cole e tanti tanti altri. Quindi, dopo un lungo periodo all'interno delle grandi orchestre, nel 1947 Billy Eckstine fu il primo afroamericano a firmare un grande contratto possiamo definire principesco con una major, la MGM, diretta da Leonard George Lenny Hayton. Quindi vi propongo questo pomeriggio il brano di Billy Eckstine che si intitola I Wonder Why, tra parentesi, Nobody Loves Me, brano su etichetta Motown del 1967. I Wonder Why di Billy Eckstine. Come vi dicevo, la figura di questo grandissimo artista è stata fondamentale per tutta la storia della musica statunitense. Infatti, oltre che essere un grandissimo artista per quanto riguarda il jazz, a partire dagli anni 50, Eckstein prima iniziò a dirigere un ottetto e poi iniziò a lavorare come solista, divenendo un popolare cantante di ballate. Infatti la sua voce di potente baritono lo fece diventare uno dei primi cantanti afroamericani di successo presso il pubblico tradizionale di musica leggera americana. Nella sua autobiografia Miles Davis ricorda che Eckstein, come una persona di carattere molto decisa, è costantemente circondato di bellissime donne, ma soprattutto dice che grazie all'ascolto dell'orchestra di Eckstein, Miles Davis proprio decise di dedicarsi alla musica jazz. Scrive Davis, suonavano roba mai sentita prima che ti faceva ballare le budella, quindi è proprio grazie a Billy Eckstein, che il grandissimo Miles Davis decise di intraprendere la carriera musicale. Eckstein non registrò moltissimi album, infatti, come affermò Quincy Jones, se Billy fosse stato un bianco, il cielo non gli sarebbe stato un limite. Infatti, Eckstein fu un grande combattente per i diritti civili e umani dei neri in una America fortemente razzista e segregazionista. Infatti, quando nel 1954 gli venne offerto un ruolo da protagonista maschile in un film di Otto Preminger intitolato Carmen Jones, una volta letto il copione, rifiutò la parte dicendo che non poteva accettare di interpretare un personaggio che parla come lo zio Tom, pur sapendo che il film lo avrebbe riportato ai fasti degli anni antecedenti, la campagna di denigrazione nei suoi confronti, dovuta a un servizio di Life in cui una foto lo ritraeva circondato da una decina di teenagers bianche, che provocò un grandissimo scandalo nell'America di quel tempo. Quindi, conclusi un po' così di cenni su questa grande figura, quella di Billy Eckstein, proseguiamo con la musica. Vi vado a proporre un brano di Ted Taylor, nato Theodore Taylor nel 1934, cantante americano di musica R&B e soul. Non mi dilungherò molto sui cenni storici su Ted Taylor, perché sennò tutti i brani che ho preparato non faccio in tempo a farveli ascoltare, visto che mi sono un po' dilungato sulla figura di Eckstein. Vi faccio ascoltare questo bellissimo disco su etichetta O-Key del 1970. 63, 1963 di appunto Ted Taylor, che si intitola That's Life, I Guess. Ce lo andiamo subito ad ascoltare. Mentre invece, per quanto riguarda la figura di Ted Taylor, vi racconterò qualcosa nelle prossime puntate. Quindi, That's Life, I Guess, Ted Taylor. The bad thing about you, it hurt me to my heart to know you was untrue, but that's life, I guess. Some people win, some lose. No need to kid myself, I've lost you. Everybody says, Ted, you plan a losing hand. The woman that you love, and love another man, but that's life. When you start acting funny, but I was such a fool and gave you all of my money, but that's life, I guess. Some people win, some lose. I'm the unlucky one, I lost you. Yeah. That's Life, I Guess, di Ted Taylor. Proseguiamo così, senza soluzione di continuità, proseguiamo con un brano del 1965, sicuramente il brano più conosciuto dei Selectives. Per la precisione, questo brano è accreditato ai The Selectives featuring Jimmy Green, brano che si intitola 1581, ve lo dico in italiano, 1581 Rhythm Street. Brano questo su etichetta Uptown, prodotto da Eddie Ray. Eccolo qui, pronto per l'ascolto. The Selectives, Rhythm Streets. Tears in your eyes, and you're feeling mighty low, and when you're in doubt, tell me where do you go? I go to 1581 Rhythm Street, and that's my troubles away. With that beat, with that beat. Happiness fills the air. Yeah. Oh yes, your fun will begin if you go there, right down to 1581 Rhythm Street, and dance my troubles away with that beat. With that beat. The Selectives con 1581 Rhythm Street. Quindi la prossima cantante che ci ascolteremo è Timi Iuro, nome d'arte di Rosemary Timotea Aurro, nata a Chicago nel 1940 e scomparsa a Las Vegas nel 2004, cantante statunitense di genere pop, soul e R&B. Nata da genitori italiani originari del paese molisano di Rocchetta a Volturno, si sposta giovanissima con la famiglia a Los Angeles, dove talvolta si esibisce nel ristorante dei genitori. Presto ebbe modo di sottoscrivere un contratto discografico con la Liberty Records ed esordisce con il singolo Heart nel 1961, ballata in stile R&B lanciata da Roy Hamilton. Il suo stile vocale potente ed emozionale ricorda quello di Dinah Washington, tanto che molti ascoltatori pensarono che Timi fosse una cantante di colore. Heart arrivò al quarto posto della classifica americana di vendite e 5 anni più tardi fu portata al successo in Italia da Fausto Leali, che la reinterpretò con il titolo A Chi, la famosissima A Chi di Fausto Leali. Mentre il primo album della nostra Timi Iuro si intitola, Make the World Go Away del 1963 e contiene pezzi country e standard melodici reinterpretati in chiave soul. Successivamente Timi Iuro si esibisce in numerose città statunitensi e partecipa come spalla alla tournée australiana di Frank Sinatra del 1962. Nel 65 viene invitata in Italia al Festival di Sanremo, a quale partecipa con 2 canzoni. Poi vi ritornerà nel 1968 con il brano Le solite cose di Pino Donaggio. Verso la fine degli anni 60 poi passa dalla Liberty alla Mercury Records, ma la sua stella è ormai in declino. Poi ritornò un po' in auge nel 1976 quando il gruppo dei Manhattans rilancia Heart in versione discografica. Discografica in versione disco music, e molti DJ del Regno Unito e dei Paesi Bassi utilizzano la sua voce campionata per alcuni remix di successo. Una curiosità: uno dei più grandi fan di Tim Euro è stato Elvis Presley, che incise la sua personale versione di Heart nel 1976, e si dice che avesse sempre il suo tavolo personale prenotato nei locali di Las Vegas quando la cantante veniva ad esibirsi. Quindi a questo punto direi di andarci ad ascoltare questo brano fondamentale per la carriera di Tim Euro. Ci andiamo ad ascoltare Heart. Your love was true, and we'd never, never, ever part. Now you want someone new, and it breaks my heart. Oh, I'm so hurt. Much more, oh, than you'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt. Because I still love you so. But even though you hurt me like nobody else could ever do, I would never Questo era Tim Euro con la famosissima Heart, vi ricordo, brano poi reinterpretato da Elvis Presley, perché no, anche famosissimo in Italia per la A Chi di Fausto Leali. Direi di chiudere a questo punto questa puntata di Soul Time, sempre con un brano di Tim Euro, brano decisamente più ritmato, più vivace rispetto ad Heart, brano che si intitola I Ain't Gonna Cry No More, brano del 1962, inciso sempre per la Liberty su formato 7 pollici. Prima di ascoltarci quest'ultimo brano, vi ricordo come al solito gli appuntamenti con Soul Time. Potete ascoltare Soul Time tutti i mercoledì alle 17.30 su Radio Wombat tramite le frequenze in onde medie sul 1359 presso la città di Firenze e dintorni, o altrimenti sul sito radiowombat.noblogs.org. poi la replica va in onda il venerdì alle 10 di mattina e il sabato alle 21, il sabato sera alle 21, oltre ovviamente al podcast che di volta in volta viene pubblicato proprio sul sito di Radio Wombat, in maniera tale che se volete potete riascoltarvi le varie puntate quando vi pare e piace. Io vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento a mercoledì prossimo. Vi lascio con questo brano di Tim Euro che si intitola I Ain't Gonna Cry No More. Alla prossima puntata. No more, I ain't gonna cry no more. No use begging, I ain't coming back to you. Somebody else has already taken your place, and you'll never hurt me again like you did before. I ain't gonna cry no more. Thank you.